Allora direi che possiamo iniziare. Oggi abbiamo quattro ospiti importanti: Giuseppe Professore dell'Università di Napoli, fisico, insegna informatica teorica, che è anche quello che insegno io a Verona, calcolabilità, quelle che sono le radici fondamentali dell'informatica. Abbiamo Ferdinand Giaretta dell'Università di Verona, filosofo, che ci parlerà della dimostrazione di Gödel, quindi la dimostrazione di incompletezza. Chiaramente è una dimostrazione che di per sé occupa svariate pagine, un articolo fondamentale del 1931, che io tipicamente ai miei studenti dico segna l'origine dell'informatica. In quel momento si è definito ciò che il calcolatore non poteva raggiungere, ciò che il calcolatore non poteva calcolare. E allora ci si è domandati cosa può fare il calcolatore. Da quel momento, da quel risultato negativo, diciamo, nasce una delle rivoluzioni più importanti del primo secolo, tutte le information technology, da partire dalla macchina di Turing fino all'intelligenza artificiale. Enrico Gregorio, matematico dell'Università di Verona, mio collega al dipartimento, che ci parlerà di Escher, che in un certo senso è precursore delle geometrie non euclidee. Geometrie non euclidee sembrano le geometrie dell'impossibile. Noi siamo abituati a pensare a un triangolo che ha come somma di angoli 180. No, si rilasciano alcune ipotesi e si creano delle strutture che non sono più quelle che noi siamo abituati a immaginare guardando un panorama, ma sono assolutamente fisiche, in realtà fondamentali della fisica. La relatività si fonda su ipotesi geometriche di tipo non euclideo. Poi abbiamo Andrea Cipriani, organista, che ci parlerà del canone. Allora, l'elemento di fondo di questa tavola rotonda, di discorso di oggi, sono quelli che lo Strasser chiama gli strange loops, cioè questi strani anelli. Gli strani anelli sono quelli che permettono alla matematica, nella dimostrazione di Gödel, di rappresentare dentro la teoria la metateoria. Cioè, io, se devo ragionare su una teoria, io costruisco uno schema di ragionamento, una dimostrazione. Beh, l'azione del dimostrare diventa un oggetto stesso della teoria. Quindi è come se si mangiasse la coda, la teoria. Può parlare di se stessa e diventa un oggetto del suo ragionamento. I greci in realtà già con Epimenide ragionavano in questo modo. Cioè, quando uno pensa al paradosso del mentitore, i cretesi sono bugiardi, Epimenide è un cretese, dice i cretesi sono bugiardi. Allora se Epimenide ha ragione, chiaramente lui è un bugiardo, ma allora non ha ragione. E non si viene fuori da questo paradosso, perché è un paradosso linguistico. Gödel utilizzerà proprio questa quest'idea antichissima, ma riuscirà a costruire una dimostrazione per cui dimostrerà che nella matematica non tutto è derivabile meccanicamente con una trasformazione di simboli privi del loro significato. Quindi l'informatica non riuscirà mai a generare in automatico tutti i teoremi della matematica. Questa possibilità di collegare teoria e metodologia è un po' quello che anche Escher, nelle immagini che sono bellissime, che sono raccolte qui a Palazzo Porti, rappresenta quando confonde sfondo e figura, cioè immerge la figura nello sfondo. Esattamente come Gödel immergeva la dimostrazione tra i numeri, cioè riusciva a codificare un principio di dimostrazione come un numero, dopodiché ragionando sui numeri ragiona sul modo di dimostrare. Questi sono gli strani anelli, che in musica, e non intendo minimamente di musica, ma che in musica sono rappresentati dal canto. Il canone, se ne parlerà Cipriani, è, in informatica direbbe, è un esempio di procedura ricorsiva, cioè che richiama se stesso, si attiva, e nel libro di Hofstadter, G e B, Gödel e Scherbach, che per molti della mia generazione è stato determinante, personalmente ho scelto di fare informatica e lo avevo letto. È un libro labirintico, complicato, pieno di tante cose, ci sono linguaggi di programmazione, ci sono implementazione di architetture, c'è logica, c'è arte, c'è musica, quindi è un labirinto di mille informazioni. Però dà quell'idea che c'è una ricchezza enorme nel ragionare, ed è una ricchezza che è alla base della matematica, dell'arte e della musica, che sono insieme tre espressioni fondamentali del pensiero umano. Allora, io con questo ho introdotto il problema, inizio dando la parola al dottor, che è fisico, come ho detto, lui ci tiene direttamente perché l'informatica nasce in Italia in tempi recenti ed è un esempio di ibrido di fisica, di matematica, di ingegneria. Ed è bene che rimanga così ibrida, nel senso che è importante che dall'esterno delle discipline proprie entrino influenze che sono fondamentali per questo sviluppo. Giuseppe Trattore ci parlerà proprio del libro Due Cerebelli e della sua importanza.